slick chick. See, a neat chick. The C's part of makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey, hey, hey. The high heels on for the baby blues. The very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Everybody stopped on a dime to look. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll switch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, oh man, see you mine. I said, oh, I got a stick chick. See, it's a neat chick. But see what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't you know she's a stick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick, yeah, yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click it, click it, click it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got, yeah, a crazy little chick. Yeah, yeah. I don't, yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. No. Eccoci qua. Wombate, carissime e wombati, carissimi. Siamo a una nuova puntata di Slick Chick e state ovviamente ascoltando Radio Wombat, probabilmente dal sito wombat.noblogs.org, cliccando sul meraviglioso pulsante che vi consente di accedere allo streaming delle nostre trasmissioni, oppure attraverso la app molto molto tecnologica, vabbè, un po' così, un po' rozza ma funzionale, che vi permette di collegarvi anche dai vostri stupidi aggeggi telefonici. E allora oggi, la puntata di oggi, ultima puntata del mese di maggio 2018, il 30 maggio in particolare, la puntata di Slick Chick è dedicata alla fotografia. Vedremo nelle sue innumerevoli declinazioni, non tutte chiaramente, ma beh, almeno alcune. Fotografia come intesa come oggetto proprio, cioè in tanti all'interno del mondo musicale hanno parlato proprio dell'oggetto foto, quella che si tiene in mano. Almeno ai tempi della fotografia non digitale, in quanto simbolo, ricordo, beh, insomma, poi lo vedremo, oppure fotografia in quanto arte, oppure anche fotografia proprio intesa da un punto di vista tecnico, lo vedremo, lo studio della fotografia, alcune scoperte che sono state fatte negli anni, vabbè, insomma, in tanti hanno parlato della fotografia e delle suggestioni che ne scaturivano, a iniziare ovviamente da i Cure. Io la butto subito così in caciara, perché chiaramente non potevo non mettere questo pezzo, e allora ho detto tanto vale metterlo per primo, cioè visto che è il brano che probabilmente tutti voi vi aspettavate da una scaletta sulla fotografia, e se non ve l'aspettavate comunque lo beccate lo stesso, perché secondo me è un brano bellissimo peraltro. Iniziamo proprio da lui, da questo brano, ovvero Pictures of You dei Cure. L'album è Disintegration del 1989 e parla, questo si capisce abbastanza evidentemente dal testo, di qualcuno ossessionato, in qualche modo perseguitato dalle foto di un'amata o un amato. Grazie all'ambiguità dell'inglese, però in realtà questo diciamo che si capisce anche troppo bene, è evidente, ma ci sono degli episodi che stanno dietro a questo brano che io ad esempio ignoravo totalmente. Si parla ovviamente di fotografie simboliche della difficoltà di vivere immersi nei ricordi, ma non è proprio tanto poi un simbolo, cioè in realtà ci si fanno dei riferimenti precisi, perché pare che Robert Smith aveva letto questo saggio di Myra Poleo intitolato The Dark Power of, of Ritual Pictures, e ne rimase talmente colpito che distrusse subito tutte le sue vecchie fotografie. Poi pare se ne pentì amaramente, come era abbastanza evidente, però diciamo che era talmente spaventato dalla possibilità di rimanere invischiato un po' nei ricordi e nelle fotografie appunto, che decise almeno in quel momento, in quei 5 minuti, di facciamola finita col passato, salvo poi appunto ovviamente pentirsene un po'. In ogni caso, insomma, le fotografie a cui allude Smith sono quelle che fai alle persone a cui tieni e a cui ti aggrappi, perché immutabili in qualche modo, almeno le fotografie, anche quando non ritraggono più la realtà del presente. Quindi diciamo che almeno nella visione malinconica di Robert Smith, di Cure, le fotografie sono qualcosa che ritraggono una realtà che nel frattempo è mutata e che tu però preferivi ricordartela per com'era. E sono arrivate le zanzare nella tana del Wombat, anche per quest'anno ve l'annuncio, magari eravate preoccupati, e sì, sono arrivate. E questa invece era Siouxsie and the Banshees, ovviamente con Red Light. Beh sì, effettivamente subito dopo i Cure direi che era un po' d'obbligo. E l'album Kaleidoscope del 1980, con tutta l'ossessività e l'angoscia di un set di fotografia porno, diciamo che un po' questo ci rimanda indietro il brano che ci siamo appena finiti di ascoltare, quindi la luce rossa di questo tipo di set. E proseguendo nella scaletta arriviamo invece a un altro brano, un brano decisamente più oscuro, My Heart is Empty, quindi un bel capolavoro di Nico, ma alquanto cupo, ecco, dell'ultima Nico. L'album infatti è Camera Obscura ed è per questo che rientra perfettamente dentro questa scaletta di oggi, del 1985, quindi verso proprio la fine della carriera e degli anni della vita di Nico, ahimè. Settimo e ultimo infatti album che vede come produttore John Cale, e che nel brano omonimo al titolo dell'album, quindi proprio Camera Obscura, fa anche la voce. Ma in questo caso io ho scelto un altro brano, non Camera Obscura proprio, perché mi piaceva comunque invece dare risalto ancora una volta a Nico e alla sua di voce roca verso il finire dei suoi anni, con appunto My Heart is Empty, But the Song I Sing Are Filled with Love with You. My heart is empty. E se Nico con My Heart Is Empty e in l'intero album, direi, Camera Obscura del 1985 ci offriva una fotografia decisamente in bianco e nero, o al massimo un po' seppia, ma direi che rimarrei su bianco e nero, c'è qualcun altro che invece ha probabilmente scelto una fotografia decisamente più colorata, usando un po' tutta la gamma dei colori a disposizione, almeno della tecnica di quegli anni, e questo qualcuno è Paul Simon con Kodachrome. L'album è There's Girls Rhyme, sì, che ho detto? There's Girls Rhyme di... no, ma perché l'ho letto proprio male, scusatemi, c'ho una defiance. L'album appunto è There's Girls Rhyme Simon, era un po' uno scioglilingua però, perdonatemi, del 1973. E Kodachrome è il metodo con cui la Kodak realizzava la trasparenza colorata, ma è anche più comunemente conosciuto come un tipo di pellicola colorata, appunto, che la Kodak iniziò a fabbricare nel 1935. Paul Simon ne fa una canzone per celebrare tutte le cose che in qualche modo colorano la sua vita e il cui ricordo definiscono i contorni della sua visione del mondo. A questo punto, mettendole una accanto all'altro, il bianco e nero di Nico e i colori di Paul Simon, sta a voi decidere quale dei due tipi di fotografia vi risponde meglio. dopo questi ritmi allegrotti e la vocetta saltellante, direi, di Paul Simon, invece passiamo ai Beastie Boys, che saltellanti sono, ma decisamente con un altro stile. Il brano in particolare che vi faccio ascoltare è Sure Shot. L'album è High Communication del 1994. E lo sentirete, c'è un sample che ricorre nella canzone, che è tratto da un brano Hoolin' for Judy, un brano di un flautista jazz, Jeremy Steig. La Sure Shot invece era, come gli americani chiamavano, una macchina particolare, una macchina fotografica, un modello preciso intendo, la Canon AF35M, oggi mi incarto con le parole, una macchina compatta e diffusissima, e appunto soprattutto in quegli anni, scatto sicuro, Sure Shot, probabilmente perché era la prima, della Canon almeno, ad avere l'autofocus. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Because you care, you want, and you don't stop. Because you care, you want, and you don't stop. Oh, when you care, you want, and you don't stop. If you ain't coming back, for sure. Ecco, questi erano i Beastie Boys. Con questo colgo l'occasione, così, giusto sull'ondata di entusiasmo, di ricordarvi che il prossimo fine settimana, quindi dal 31 maggio al 3 giugno, si svolgerà la nuova edizione, l'edizione 2018 di Inchiostri Ribelli, il festival, chiamiamo così, dedicato alle arti grafiche, ai fumetti e ai tatuaggi. e ambientato in alcuni spazi occupati e autogestiti fiorentini, proprio perché si intende dare a queste arti e a questo tipo di forma espressiva una connotazione appunto liberata, tanto quanto i luoghi che li ospiteranno, ecco. E quindi giovedì 31 maggio la giornata sarà alla Polveriera Spazio Comune, mentre venerdì 1 giugno si sposterà, come ormai nelle edizioni degli ultimi anni ci siamo abituati a dover un po' inseguire questa Inchiostri Ribelli sparsa per vari spazi nella città, e quindi appunto venerdì 1 giugno tutti all'occupazione di Via del Leone, e dopo la sera, sempre di venerdì, invece tutti al Next Emerson. Invece sabato 2 giugno, per il penultimo giorno, tutto avverrà all'occupazione di Viale Corsica 81, e idem il giorno dopo, domenica 3 giugno. Quindi insomma, per seguire e un pochino guardare, soprattutto supportare le edizioni Inchiostri Ribelli di quest'anno, potete appunto recarvi almeno a uno di tutti questi giorni ricchissimi di eventi, avvenimenti, banchini informativi, tra cui anche quello di Radio Wombat, che non poteva mancare, concerti, workshop artistici di veramente qualunque cosa, e insomma un po' di tutto. Quindi vi do le coordinate più importanti, che sono il sito internet inchiostriribelli.noblogs.org, dove potete informarvi sul programma completo, che è veramente ricco e non c'è per cui tempo adesso che io lo legga. Quindi potete andare a leggervelo da soli e poi scegliere dove andare, oppure ancora più semplicemente andare ovunque. Vi ricordo che in particolare Inchiostri Ribelli, oltre ad avere una valenza molto importante per tutto quello che esprime in questi giorni, è assolutamente sempre stato e sempre sarà benefit per gli inguaiati con la legge di vari processi in particolare. Quindi insomma, andate a sostenere questa importantissima cosa che è Inchiostri Ribelli. Torniamo alla nostra scaletta invece, che in qualche modo è artistica anch'essa, dato che si occupa di fotografia, e continuiamo appunto a sostenere un po' la musica e i suoi intrecci con la fotografia, attraverso in questo caso Nina Hagen, la prima Nina Hagen, ovvero Nina Hagen and the Automobile, il primo gruppo con cui suona e canta Nina Hagen nella Germania dell'Est. Ancora il brano in particolare che ci ascoltiamo è Du hast den Farbfilm vergessen, o più semplicemente, almeno per me, in inglese You forgot the color film, del lontano 1974. Nina Hagen all'epoca aveva 18 anni ed era appunto abitava ancora nella Germania dell'Est, e ci racconta la storia di questa ragazza che rimprovera il fidanzato di essersi scordato il rullino a colori della macchina fotografica quando dovevano andare in vacanza. Si dice, mi sembra abbastanza probabile, che fosse una sottile, non come la voce di Nina Hagen, che invece è alquanto esplicita, una sottile satira sul monocromatico mondo della Germania dell'Est. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Capito? Questa era Nina Hagen, appunto, con gli Automobile. E 1967 invece è l'anno del prossimo brano, Pictures of Lily, un brano strafamoso degli Who. C'è sto ragazzino che non riesce a dormire e allora se ne lamenta col padre, che va a prendergli delle foto di questa Lily. Il ragazzino inizia subito a sentirsi meglio, riprende il sonno e piano piano inizia a desiderare che questa Lily fosse in carne ed ossa e non solo una fotografia. Quindi chiede a suo padre di presentargliela. Lui gli risponde che in realtà questa Lily è morta dal 1929, da un bel po'. E il ragazzino inizialmente cade nella disperazione e poi piano piano si dice che... in fondo gli va, dice a se stesso, insomma, che in fondo gli va bene pure così, e torna ad adorare le fotografie, lasciando spaziare l'immaginazione e la fantasia. Sembra che l'ispirazione sia arrivata agli Who da una foto che la ragazza di una di loro aveva appeso in camera. Era la foto di una vecchia star di vaudeville, Lily Bayliss. E era una cartolina degli anni 20 e sopra qualcuno ci aveva scritto: ecco un'altra foto di Lily, spero che tu non ce l'avessi già. E quindi questa è la il brano, appunto, che racconta tutta questa storia, Pictures of Lily. Ma ce l'ascoltiamo non nella versione originale degli Who, che peraltro probabilmente avete già ascoltato un po' tutti, ma è una versione bellissima secondo me di David Bowie. If only I versione diametralmente, diametralmente no, ma insomma diversissima dall'originale, come è giusto che sia, ma che ne conserva comunque sia, direi, quella furbizia, quella furbetteria che aveva l'originale degli Who. Ancora nella scaletta ci restano ancora un po' di brani. Il prossimo è di Billy Bragg con Cindy of a Thousand Lives, l'album è Don't Try This at Home del 1991. Questo brano è proprio un brano didascalico, quasi, direi, che celebra Cindy Sherman. Cindy Sherman è una fotografa che sia famosa per essersi appropriata dello stereotipo maschilista della donna sensuale e averlo interpretato in prima persona per riutilizzarlo poi in chiave ironica. Questa è solo una delle chiavi e solo una dei soggetti anche che ha scelto, ne ha scelti un bel po', ma tutti con qualcosa in comune, in particolare la caratteristica di usare lo stereotipo stesso per eliminare lo stereotipo, appunto. Le immagini create da Cindy Sherman riguardano tutte alcuni cliché femminili e rimandano alla fragilità dell'io di fronte ai meccanismi di identificazione e di riconoscimento sociale. Dice così: quando andavo a scuola cominciava a disgustarmi la considerazione religiosa e sacrale dell'arte e volevo fare qualcosa che chiunque per strada potesse apprezzare. Ecco perché volevo imitare qualcosa di appartenente alla cultura e nel contempo prendermi gioco di quella stessa cultura. Quando non ero al lavoro ero così ossessionata dal cambiare la mia identità che lo facevo anche senza predisporre prima la macchina fotografica e anche se non c'era nessuno a guardarmi, per andare in giro. E infatti poi nel tempo Cindy Sherman è diventata famosissima per questi suoi continui e prepotenti in qualche maniera cambi di identità che aveva. Probabilmente era veramente più forte di lei e lo è, perché è ancora viva e tuttora penso che faccia tutto ciò. E quindi è stata una delle probabilmente artiste più importanti che hanno raccontato la fluidità e la liquidità dell'identità in qualche maniera. Le più aspre critiche tuttavia giungeranno allora proprio dall'ambiente femminista, che l'accuserà di non prendere alcuna posizione politica e culturale, ma addirittura di perpetuare un certo immaginario col proporre un'ennesima proiezione dell'inconscio maschile. Che si deve fare? Le perle ai porci, te fai qualcosa di raffinato e niente, non c'è verso. Cindy of a Thousand Lives di Billy Bragg. Radio Wombat, Slick Chic, che oggi vi parla di fotografia e sempre di fotografia, decisamente parla Amanda Lear con I Am a Photograph, letterale, proprio didascalico, che più di così, proprio più chiaro di così non si poteva dire, dal primo album di Amanda Lear pubblicato nel 77. La campagna promozionale dell'album, in maniera direi molto furba, viene fondata sulla presunta scandalosa personalità di Amanda Lear e accompagnata dalle voci sul suo altrettanto presunto cambio di sesso, ma anche sul suo luogo di nascita, che in quel periodo si diceva essere la Transilvania, e sulle sue relazioni con Salvador Dalì e David Bowie, almeno queste probabilmente vere. I Am a Photograph, sono una fotografia, insomma, e Amanda Lear era una modella e ben sapeva di cosa stava parlando. Sono una fotografia lucida, sono a colori e illuminata in modo soft, sovraesposta e che risalti bene, accuratamente stampata e ben tagliata. Puoi guardarmi per ore, non mi importerebbe, ti lascio sognare dalla pagina di una rivista. Sono una fotografia lucida, certo, un po' ritoccata, e il mio colore è stato riprocessato, ma le macchine fotografiche cancellano sempre la paura in agguato dietro una faccia. Sono una bugia e sono loro, ma non invecchierò mai. Le mie labbra sono separate, ma non per baciare. I miei occhi sono aperti, ma non sto ascoltando. I miei seni sono rotondi, ma il mio cuore manca. Sono una fotografia, sono meglio del reale. Glossy photograph. I am in color and softly lit. Overexposed and well blown up. Carefully printed and neatly cut. You can look at me for hours. I won't mind, I'll let you dream. From the page of a magazine. I am a glossy photograph. Of course I am a bit retouched. And my color has been processed. But cameras always erase. Behind the face, I'm alive and I'm gold, but I shall never grow old. My lips are parted, but they're not for kissing. My eyes are. But I'm not listening. My breasts are round, but my heart is missing. I'm a photograph. I'm a photograph. I'm a photograph. I'm better than the real thing. Glossy photograph. I am appearing by the magic Nikon automatic. Maybe I'm just a piece of paper, but something that I am better. And photographs do not complain or cry or love or suffer. Or cry or love or suffer. Or cry or love or suffer. se non ve lo ricordate più, state sempre in ascolto di Radio Wombat, Slick Chic, scaletta dedicata alla fotografia questo mercoledì, e stiamo per finire, abbiamo soltanto due brani che ci separano dalla buonanotte, dalla fine di questa scaletta, due brani però bellissimi, vi faccio questa solenne promessa, sono veramente due pezzoni che io ascolterei per ore, penso anche voi, spero, ma penso di sì, visto che siete miei coltissimi, affezionatissimi, affezionatissime ascoltatrici. In particolare il primo è Philip Glass, A Gentleman's Honor, il primo dei brani dell'opera The Photographer, che è un'opera da camera composta appunto da Philip Glass, basata sul processo per omicidio intentato al fotografo Edward Muybridge. L'opera si basa proprio sulle parole del processo, su tutti i racconti del processo, gli atti e anche dalle lettere che Muybridge scriveva alla moglie. Quest'opera venne commissionata dall'Holland Festival e fu messa in scena per la prima volta nel 1982 al Royal Palace ad Amsterdam. Edward Muybridge fu un pioniere della fotografia del movimento. E nel 1872 l'uomo d'affari e governatore della California, Leland Stanford, chiese a Muybridge di confermare una sua ipotesi, ovvero che durante il galoppo di un cavallo esiste un istante in cui tutte le zampe sono sollevate da terra. Nel 1878 Muybridge fotografò con successo un cavallo in corsa utilizzando 24 fotocamere sistemate parallelamente lungo il tracciato. Ogni singola macchina veniva azionata da un filo colpito dagli zoccoli del cavallo e la sequenza di fotografie derivata, chiamata The Horse in Motion, mostrò come gli zoccoli si sollevassero dal terreno contemporaneamente, ma non nella posizione di completa estensione come invece era comunemente raffigurato. Era infatti convinzione comune che il cavallo si staccasse completamente da terra nella posizione di massima estensione, con la zampa completamente distesa, e questa situazione fu spesso raffigurata nei dipinti e nei disegni degli inizi del 1800, come ad esempio nelle opere di Géricault, ma in tantissime altre se andate a vedere prima dell'Ottocento. I risultati di Muybridge sconvolsero questa visione e influenzarono pesantemente l'attività dei pittori, che si affidarono sempre più al mezzo fotografico per meglio riprodurre quello che l'occhio umano confonde. Molti pittori utilizzarono fotografie di figure umane per copiarle nei loro quadri e si arrivò anche alla pittura diretta su lastra fotografica. Insomma, l'occhio umano non era più degno di fiducia, non ci se ne poteva più fidare. L'analisi forse più attenta del movimento catturato da Muybridge venne portata a termine da Edgar Degas, che studiò a fondo tutte le posizioni assunte dal cavallo. Muybridge utilizzò la tecnica della cronofotografia per studiare il movimento sia degli animali ma anche delle persone, e il suo lavoro fu precursore, insomma, della biomeccanica e della meccanica degli atleti. Ma nel 1874 questa splendida personcina di cui vi abbiamo adesso parlato, mentre viveva nella baia di San Francisco, scoprì che la moglie aveva un amante, il maggior Harry Larkins. Il 17 ottobre dello stesso anno Muybridge gli sparò uccidendolo e per questo venne processato, appunto, ma fu assolto perché ritenuto un omicidio giustificato. D'altra parte era il 1874, il delitto d'onore in Italia è stato abolito più di 100 anni dopo, quindi insomma di che ci dobbiamo stupire. Questo episodio fu rappresentato nell'opera appunto da Philip Glass, The Photographer, come abbiamo detto, appunto si parla dell'onore di un gentiluomo. Si parla sempre di onore quando invece probabilmente si dovrebbe chiamare orgoglio o ancora meglio paura, ma vabbè. Affidiamoci a Philip Glass, che è sicuramente molto meglio. Yeah. Ecco, questo era Gentleman's Honor di Philip Glass e con questo abbiamo quasi finito, ci manca soltanto un ultimo brano di conclusione di questa scaletta prima di lasciarvi alla vostra notte e non alla vostra notte perché magari ci state ascoltando in replica, chissà. Vi ricordo infatti che oltre alla diretta il mercoledì sera alle 21 Slick Chick la potete ascoltare anche il venerdì venerdì a che ora? Alle 21 sempre, il sabato alle 17 ce l'ho davanti ma è scritto piccolo e io d'altra parte non è che ci vedo poi così bene e quindi ecco, però sì, ve lo confermo, questi sono gli orari e comunque tutte le informazioni riguardo alle trasmissioni il Wombat, orari, repliche, tutto quanto, potete trovarlo ovviamente sul sito del Wombat, wombat.noblogs.org e se qualcosa non vi è chiaro potete invece scriverci e contattarci alla mail posta@insiberia.net. Con questo vi do la buonanotte o il buongiorno o quello che è. E vi lascio, quindi vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre con Slick Chick, ma non prima di annunciarvi l'ultimo bellissimo pezzo che chiude questa scaletta sulle fotografie, ovvero Photograph di Gary Numan del 1980, la splendida B-side del singolo di The Wreckage. Buonanotte o quel che è. Ciao ciao!